Radio 24 Reportage. L'Italia che riparte. Cronache dalla fase 2. Di Maria Luisa Pezzali. Mi sembra una cosa fantastica, ma io amo il caffè e mi piace prenderlo al bar, quindi mi sembra già un passo avanti questo. Dobbiamo accontentarci dei piccoli passi avanti che questo virus ci consente. Dal caffè consumato in strada ai guanti alle mascherine sui mezzi pubblici, gli italiani sono alle prese con le regole e le abitudini della cosiddetta nuova normalità. La fase 2 è iniziata lunedì 4 maggio dopo il lockdown che ha fermato il paese per quasi due mesi e sta mettendo alla prova soprattutto le grandi città. Milano in testa, al centro dell'area più colpita dal coronavirus. Insieme alle colleghe Rosanna Magnano, Valentina Furlanetto, Anna Marino e Cristina Carpinelli abbiamo raccolto le voci di un'Italia che riparte. Dai trasporti al turismo mancato, dalla gestione familiare alla spesa solidale, fino alla riapertura a metà dei bar e dei ristoranti, in attesa della ripartenza vera e propria. Mi aspettavo più casino, ero la prima in ansia, diciamo, questa mattina, quindi mi sono mossa molto prima, ma già nelle settimane scorse che ho avuto modo di testare i mezzi pubblici e tutto, devo dire che ci siamo organizzati bene. I passeggeri stanno capendo la situazione e rispettano le regole. Aspettiamo il 18 però. Ho paura, sì, però guardando anche la stazione qui della metro sembra sia un po' più organizzato, si stanno un po' mettendo in moto anche per far ripartire la città, perché è giusto. Il 100% con le mascherine, i guanti qualcuno no, però la maggior parte usa anche i guanti. Primo test, i trasporti, che Milano supera molto bene. Conta persone, ingressi scaglionati con i tornelli pronti alla chiusura, raggiunto il limite massimo consentito, aumento delle corse, distanza di sicurezza, guanti e mascherine obbligatorie. Le corse metropolitane e di superficie possono trasportare il 25% dei passeggeri rispetto alla capienza totale. I flussi corrispondono e il sistema tiene. Le grandi aziende del resto hanno fatto rientrare solo il 20% dei dipendenti, molte hanno mantenuto lo smart working e introdotto orari differenziati in entrata e in uscita. Per le famiglie, scuole chiuse, le difficoltà restano. Per i bambini è la prima uscita formale, a parte un paio di giri in bicicletta, è molto emozionante, sono molto felice. Jacopo e Emma. La gestione dei bambini è comunque un po' complessa, io lavoro in smart working, mio marito anche, finché possiamo. Lavorare da casa, smart working. Io ci sto attento, perché lei sempre con la maschera, poi siamo usciti ecco questi due giorni, io sto due mesi che sto dentro casa. Preoccupano invece i parchi, dove il distanziamento non viene sempre rispettato. Per i weekend la polizia locale ha messo in campo 1100 agenti, resta il divieto di utilizzare attrezzature e aree gioco. Per gli sportivi l'indicazione di correre da soli e non in gruppo. Critiche le aree della Movida a Milano i Navigli, dove le immagini a soli 4 giorni dalla ripartenza hanno mostrato decine di persone assiepate davanti a bar e locali, anche senza mascherina. L'arrabbiatura del sindaco Beppe Sala. Quando c'è da ringraziare i milanesi per il loro comportamento virtuoso, io sono sempre primo a farlo, però ci sono i momenti in cui c'è da incazzarsi. Milano ha bisogno di tornare a lavorare, non è una voglia riaprire, è una necessità, e io sto e starò sempre dalla parte di quelle famiglie che fanno fatica a arrivare a fine mese. Sto dalla parte di quelli che vanno a lavorare, non a divertirsi, e non permetterò che 4 scalmanati senza mascherina, uno vicino all'altro, mettano in discussione tutto ciò. O le cose cambiano oggi o io domani chiudo i Navigli, piuttosto che chiudo lo sport. E poi lo spiegate voi ai baristi perché il sindaco non gli permette di vendere. E lo spiegate voi. Ai baristi torneremo tra un po', prima però siamo andati dalle famiglie in difficoltà, perché l'emergenza coronavirus, ci dicono i dati, ha causato 1 milione di nuovi poveri, persone costrette per la prima volta a chiedere aiuto per mangiare, un'emergenza che non si vedeva dal dopoguerra. Associazioni come la Caritas e il Banco Alimentare hanno registrato un aumento del 40% delle richieste di aiuto, quelle nuove sono raddoppiate. il 10% delle criticità in Lombardia, anche a Milano, lo testimoniano le file negli empori solidali della Caritas. Siamo in cassa integrazione che non ci hanno ancora pagato. Ci hanno pagato il febbraio un acconto, ma adesso, fino adesso, niente. C'è anche amici così che mi davano una mano. Lavoravo e l'impresa ha chiuso. Speriamo che finisca il virus, ma se non aiutano adesso, curiamoci dopo. Lavoro fuori Milano, impresa di pulizia, contratto a tempo determinato. Quante persone ha in casa lei? Noi 8. 8 persone, un solo stipendio. Lavoro solo io. Intanto è partito il piano di graduale riapertura dei mercati scoperti, chiusi dai primi di marzo. 26 a rotazione sugli oltre 90 abituali e solo per la parte alimentare. Mentre prosegue l'attività di delivery e dal 4 maggio anche quella di asporto per bar e ristoranti, in attesa della riapertura vera e propria fissata al momento per il 1° di giugno. Il fatturato del takeaway non supera il 10% di quello abituale, ma l'importante in questa nuova normalità è esserci. Siamo andati in uno dei cuori storici della città di Milano, Marghera, Vercelli, Magenta, zona residenziale, commerciale e di studi professionali. La fotografia dei pubblici esercizi aperti grazie all'asporto rispecchia quella nazionale, con pizzerie, gelaterie e pasticcerie a fare la parte del leone, più defilati ristoranti e bar. Sta andando come immaginavamo, nel senso un pochino di gente, qualcuno viene. Con l'asporto onestamente magari arrivano un po' di muratori, un po' di persone, 5-6 caffè alla volta, li portano via. Poi da asporto comunque in un bicchierino, anche se è termico, non è come berlo al banco, non è cambiato tutto, è cambiato quello che era la filosofia del nostro lavoro. Fino a quando non si sa. Noi abbiamo altre 2 persone che lavorano con noi, in questo momento sono in cassa integrazione. Se io lavoro con un cliente alla volta non potranno mai più rientrare a lavorare e questo diventa un problema, perché noi siamo un locale piccolo e siamo, non dico una famiglia, però insomma ci conosciamo da tanti anni e questo è un peccato. Sono dei passi che rispetto ai tempi normali vengono molto molto più apprezzati. Bisogna apprezzare anche quello che stanno facendo in questo momento, riaprendo, sappiamo che è un grosso sforzo, quindi a ognuno la propria parte. La stagione è ottima, quindi è anche piacevole tornare alle vecchie abitudini da un altro punto di vista. Quindi si rivedono le vecchie conoscenze, il bar, si fanno 2 chiacchiere a distanza ed è piacevole lo stesso. Poi si torna a lavorare in smart working, ma il rito del caffè è assolutamente mantenuto. Il settore ha già avuto perdite per 34 miliardi di euro e in molti casi gli aiuti non sono mai arrivati. 50.000 imprese su 320.000 sono a rischio chiusura. 350.000 lavoratori su 1.200.000 potrebbero rimanere senza occupazione. A esasperare gli animi, il flash mob di un gruppo di ristoratori a Milano finito con l'arrivo della polizia e le multe per assembramento ai partecipanti. Il vicepresidente di FIPE, Aldo Cursano. Riaprire un ristorante con una brigata, con un'organizzazione, può aprire attività complesse con un mercato che non c'è. E complicato. Il takeaway, l'asporto, avrebbe avuto, come negli altri paesi europei, il suo senso in questi 2 mesi per dare una risposta in qualche modo alle code dei supermercati o all'affollamento in altri ambiti. Noi un po' ci sentiamo quasi traditi. Non ci hanno dato ancora quel bicchiere d'acqua che avevamo chiesto per sopravvivere. Ci dicono che ce lo daranno. Ci danno i crediti d'imposta fra un anno, ma se noi abbiamo da bere adesso, l'acqua che tu mi darai fra un anno servirà per l'estrema unzione. La cassa in deroga che non è arrivata ai nostri ragazzi, che dove è arrivata sono 500-600 euro, tutti si aspettavano i 1.100, i 1.200. La liquidità che non è arrivata alle imprese, noi ci sentiamo davvero abbandonati. E siccome i nostri sistemi sono sistemi fragili, la ristorazione, il bar, il pubblico esercizio italiano non ha alle spalle capitali e patrimoni, siamo in ginocchio. Ecco perché la mancanza di risposte adeguate stanno portando una disperazione che poi arriva alle situazioni di Milano dove la disperazione ti porta anche a volte a fare cose che forse potrebbero essere prevenute. Nelle aree turistiche le incognite sono ancora più grandi, così sul lungolago di Como. Turisti non ce ne saranno di sicuro. Più il tempo che si perde a star qui a organizzarsi, che però lo si fa anche per non impazzire. Si viene giù al lavoro e si cerca di impegnarsi un attimino, perché altrimenti la testa viaggia in direzioni sbagliate. Como 70% turismo, e quindi quest'anno sicuramente... anche perché lavorare in queste condizioni è abbastanza difficile. Ci sono anche storie però in grado di diventare un simbolo. Torniamo a Milano con il Mannarino, macelleria con cucina. Prima il 90% dei ricavi derivava dalla ristorazione, nel mese di aprile fatturato raddoppiato e cassa integrazione evitata grazie ad una piattaforma delivery realizzata in tempi record e alla riconversione di camerieri e cuochi in addetti alle consegne e in scatolatori. Luca Ballabio. Siamo ritrovati l'11 marzo con due ristoranti chiusi, il fatturato azzerato e oltre 50 persone in attesa di ammortizzatori sociali o comunque di capire quale sarebbe stato il loro destino lavorativo. L'idea nasce da un'azione umana che era quella di riqualificare il nostro personale. Ci siamo messi a consegnare dapprima solo a Milano, dopodiché Interland, Monza e Brianza, e adesso spediamo in tutta Italia una media di 600-700 consegne al giorno. Rispetto al fatturato store, in cui con due ristoranti sviluppavamo circa 350-370 mila euro mese, e il mese di aprile abbiamo chiuso con 700 mila euro di fatturato. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.